Ed eccoci qua, sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Questa è Radio Africa, trasmissione dedicata alle sonorità del continente africano, che vi tiene compagnia quasi tutti i sabato fino alle 18. E vi ricordo il contatto telefonico, che è 06 49 17 50. For us, nobody can be against us. E come al solito vi ricordo anche che Radio Onda Rossa non fa pubblicità, quindi se volete ancora ascoltare questa radio, il conto corrente postale è il 61 80 40 01, intestato alla Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, Viale Voci 56, Roma. O potete naturalmente passare presso i nostri studi di Viale Voci 56 a lasciare un vostro contributo. Africa, won't you be free? Oh, Africa, Africa. Oggi Radio Africa sarà dedicata fondamentalmente al ricordo e alla riflessione sul genocidio ruandese. Erano esattamente 20 anni fa, 800.000 Tutsi oppositori Hutu vennero massacrati da aprile del 1994 fino a luglio. E, ebbene, si ricordano i 20 anni. Cercheremo di approfondire, insomma, questa storia e tutto quello che poi ne è conseguito rispetto anche alla regione, insieme a Carlo Carbone, che è docente africanista dell'Università della Calabria, insieme anche a Massimo Zaurrini, giornalista che ha seguito da vicino le vicende africane. Africa, won't you be free? Mama Africa, Africa, won't you be free? Ma naturalmente tutto questo non prima di aver ascoltato un po' di musica africana. E cominciamo subito con un gruppo che viene dal Congo Brazzaville. Loro si chiamano i Black Bazaar ed è un gruppo che è costituito da Alain Makambu, che è uno scrittore di gialli, molto apprezzato fra le altre cose, che racconta un po' di gialli ambientati nella comunità congolese parigina. Ebbene, lui è un appassionato, come d'altra parte tutti i congolesi, della rumba. Insieme al suo gruppo, il primo album è Modogo e Sam, e allora vi faccio ascoltare proprio il brano che si intitola Black Bazaar. Black Bazaar. Tozola la miso kofungwama. Sistema Black Bazaar. Questo incrocio fra la letteratura e la musica, diciamo molto produttivo, perché questo album Modogo e Sam è un album appunto che dà proprio l'idea dell'ambianza della, dei congolesi non solamente a Parigi. E allora la nuova rumba, i nuovi artisti congolesi che soprattutto anche all'estero in Europa si muovono e rivitalizzano questo genere, fra di loro c'è sicuramente Jupiter Bokonji, anche lui viene da Kinshasa, Repubblica Democratica del Congo, con il suo album Hotel Universe. E allora il brano è Margherita. Na boki sa o kaka o kango a sia il n'est plus dans mon cœur. Les camonini n'ana sala pona mon etumbu ya boye. Les camonini n'ana sali pona mon asomo ya boye. Yango biso bayanke basala biso kaka pato kemba. Yango biso bayanke basala biso kaka pato soufri. Margherita. Yendura, yom to mesala ko bonde la manzele. Bonde la, bonanga. Sia, na wadi sabango kalae. Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka. Chunga, chunga, chunga, chunga, chunga, chunga, wo. Bandayo kinda na kuma désolé. Bandayo kinda na kuma lukona mwenye zangi petrol. Bandayo kinda na kuma lukona voiture zangi essence. Chunga, chunga, chunga, chunga na baby zato. Yaka, yaka, yaka, yaka, yaka, yaka. Yango ni kamoni nana sali bona mona pasi ya boye yango na bomana ni na mokili bona sufiri boye yango likambo nini nga na sali bona kemba kaboye yango biso bayake basala biso kaka pato kemba yango biso bayake basala biso kaka pato sufiri magerita yaka yaka yaka yaka yaka yaka chunga chunga chunga chunga chunga chunga Soki olingi sa martir et koma yayo Soki olingi boulevard et triomphale yayo Soki olingi na sombela yo tout le fait Yaka Jupiter Bokonji con il suo gruppo, questo album Hotel Universe è stato pubblicato nel 2013, nel maggio del 2013 a Londra. Il gruppo era stato creato nel 90, aveva girato per molti luoghi, soprattutto in Africa. Poi dopo lo scoppio della guerra civile molti membri del gruppo sono scappati in Europa, ma lui è rimasto a Kinshasa. E poi dopo che la guerra è finita nel 2006 la sua popolarità è cresciuta, anche perché è stato protagonista di un documentario di Renaud Barré su un altro gruppo, gli Staff Benda Bill, un gruppo che è composto di musicisti che sono sulla sedia a rotelle, un gruppo in cui appunto aveva partecipato anche Jupiter Bokonji. E poi nel 2013 con il suo gruppo Oquest International è nato, è uscito questo Hotel Universe che gli ha dato il successo. 16:45, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 e la modulazione di frequenza. Vi ricordo anche il contatto telefonico che è 06 49 17 50. Ancora queste sonorità, il brano si chiama Belgo Zairoise, loro sono le Zap Mama. Là, j'ai mis la ceinture de dansage. La ceinture du mouvement. Ooh. Sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, questa è Radio Africa e come dicevamo questo sabato lo dedichiamo al ricordo, alla riflessione su quello che è successo 20 anni fa in Ruanda. Sì, perché proprio in questi giorni si ricordano i 20 anni dall'inizio di quello che i ruandesi di origine Tutsi chiamano Itsembatsemba, cioè la catastrofe, il genocidio. Ed era proprio il 6 aprile del 1994 quando l'aereo sul quale volava il presidente ruandese Juvenal Habyarimana e il suo omologo del Burundi venne abbattuto da due missili sparati dal campo dove si trovava la guardia presidenziale. E le autorità annunciarono il coprifuoco, i miliziani dell'Hutu Power e i soldati governativi presero il controllo della capitale e fu l'inizio del massacro, un massacro già pianificato, già preparato, incitati dall'emittente radiofonica Radio Mille Colline, gli estremisti Hutu nell'arco di tempo che va dall'aprile a luglio del 94 scatenarono un vero e proprio genocidio costato quasi più di 800.000 morti fra Tutsi e Hutu moderati su una popolazione di circa 7 milioni di abitanti e provocarono centinaia di migliaia di profughi e l'inizio di una guerra che ha insanguinato la regione dei Grandi Laghi coinvolgendo potenze occidentali e stati africani. Ma ciò che è avvenuto in Ruanda ha radici lontane, perché infatti prima della colonizzazione occidentale gli Hutu, i Tutsi e i Twa, i Pigmei, coesistevano da tempo immemorabile, infatti parlano la stessa lingua, il Kinyarwanda, praticano gli stessi culti religiosi. Il Ruanda e il Burundi erano degli stati retti da monarchie, dominati da clan o da famiglie. Si poteva essere piccolo, si poteva essere ricco o povero, allevatore o agricoltore. I Tutsi erano da sempre proprietari di grandi greggi, mentre gli Hutu erano contadini. Una struttura sociale divisa in caste, organizzata in maniera feudale, tipica di una società agricolo-pastorale. E i colonizzatori, prima i tedeschi, poi i belgi che si stabiliscono nel Ruanda e nel Burundi e trovano dinanzi a loro delle relazioni sociali molto più complesse di quello di quelle che si erano immaginati. Infatti queste categorie di Hutu e Tutsi non rappresentavano una razza ben determinata, ma piuttosto una casta, una categoria morale quasi, tant'è che nel Kinyarwanda, nella loro lingua, non esisteva il termine razza. Così quando un Tutsi si comportava male, rubava del bestiame o diventava povero, fino a perdere le sue bestie, poteva essere retrocesso e trattato come un Hutu, e inversamente un Hutu che possedeva un gran numero di mucche poteva accedere al rango di Tutsi. E il colonizzatore non coglie queste sfumature, perché al colonizzatore gli è molto più familiare il termine di razza. E così l'intrusione europea nella società tradizionale del Ruanda e del Burundi, società che avevano un loro ritmo di sviluppo fin dal XV secolo, ha falsato completamente i rapporti sociali, cioè li ha ridisegnati secondo un modello gerarchico di tipo europeo e li ha razzializzati. E soprattutto importanti fazioni dei gruppi, di ogni gruppo sociale hanno interiorizzato questa visione gerarchica del colonizzatore e ricostruito mentalmente la propria storia. Mama we Linda Shenji we Mama. E quindi dicevamo come in, in Ruanda il potere coloniale belga che aveva, aveva bisogno di dividere queste popolazioni per meglio dominarle, si basò su delle teorie razziali odiose. Da una parte la teoria amitica, che, per cui i Tutsi provenivano dalle, dagli altipiani dell'Etiopia, dall'altra alcune teorie sulla supremazia razziale che si rifacevano appunto a teorie ormai, insomma, che poi furono anche la base del certo razzismo che per esempio in Germania negli anni 30. E queste basandosi su queste odiose teorie razziali, il potere coloniale belga identificò i Tutsi come l'élite dominanti di cui fidarsi e definirono in pubblicazioni pseudoscientifiche i Tutsi come veri giganti che regnano su un popolo di negri e formano una razza superiore di signori. Sono slanciati, hanno il naso diritto, la fronte alta, le labbra sottili. Insomma, furono i colonizzatori belgi a piantare il seme di questo odio etnico con bisogna dirlo, l'ausilio volenteroso della Chiesa cattolica. In questo compito si impegnò a fondo il padre bianco francese Léon Classe, uno dei primi e più entusiasti sostenitori dell'ideologia etnica, che imporrà una netta discriminazione a favore di Tutsi nelle scuole cattoliche e, divenuto vicario apostolico del Ruanda nel 1922, fece pressioni sul rappresentante del governo affinché venissero destituiti tutti gli Hutu da posizioni di governo locale. Il messaggio dei missionari divulgò la questione razziale e contribuì alla creazione di stereotipi che, manipolati da ideologi senza scrupoli, sono serviti poi a alimentare l'odio e giustificare la violenza interetnica. Questo sistema di divisione etnica furono riservate ai Tutsi incarichi privilegiati, una scolarizzazione più alta e compiti di governo a scapito della maggioranza Hutu. Ma anche quando il Ruanda venne scosso dal vento dell'indipendenza africana alla fine degli anni 50 e l'élite Tutsi cominciano a richiedere più autonomia, la fine del monopolio della Chiesa sulle istruzioni, i belgi allora si rivolgono agli Hutu, perché hanno visto il loro potere in pericolo. E con una grottesca, seguendo una grottesca teoria secondo cui la maggioranza era oppressa dalla minoranza Tutsi. E questo avviene con l'appoggio ancora una volta di ambienti dell'azione cattolica legati alla Democrazia Cristiana. Nel 1959 gli Hutu si ribellarono e sulla base del manifesto dei Bahutu del 57, che denunciava il monopolio politico, economico e sociale di Tutsi, presero il potere, compiendo strage di Tutsi che furono spinti alla fuga verso e all'esilio. E questo processo, che avvenne verso la metà degli anni 50, in cui finalmente l'élite Hutu trova un eco favorevole insieme alla Chiesa cattolica, avviene anche perché erano cambiati i missionari. Prima erano i padri bianchi, abbiamo parlato, padri bianchi francesi, abbiamo parlato dell'impegno di Léon Classe per quanto riguarda le teorie pseudoscientifiche riguardo alla superiorità razziale di Tutsi. E invece i padri bianchi francesi se ne vanno da Ruanda e lasciano il posto ai fiamminghi, che si sentono più vicini ai contadini che sono Utu, che sono considerati oppressi e disprezzati. Una nuova generazione di missionari che rivive quello nel Ruanda, quello che è successo in Belgio nel movimento fiammingo, dove l'indipendenza del paese fu costruita dalla borghesia francofona che nei primi anni occupò tutti i posti importanti, e i fiamminghi ricordano ancora la loro emarginazione politica e culturale. Quindi nel Ruanda i missionari si identificano con gli umili contadini e si promettono di dare un esito alla loro lotta, incoraggiando le rivendicazioni dei primi intellettuali Utu che sono sostenuti dalla Chiesa. Intellettuali Utu che con il loro testo fondatore della rivoluzione Utu, che porta la data del 1957, il manifesto dei Bahutu, denunciano il monopolio politico, economico e sociale dei Tutsi, e la Chiesa Cattolica approverà parola per parola questo testo. E nel novembre del 59 scoppierà quella rivolta che verrà definita l'ognissante ruandese, in cui appunto gli Utu prendono il potere, e la reazione degli Utu è tanto più violenta in quanto è incoraggiata dai belgi. E questa rivoluzione Utu porterà appunto alla formazione ideologica di questa ideologia del potere Utu, dell'Utu Power, e contemporaneamente comincerà a spingere i Tutsi alla fuga. Nel 62 il Ruanda ottiene l'indipendenza e il nuovo potere Utu impose delle leggi razziali vere e proprie che impedivano ai Tutsi rimasti di lavorare nell'amministrazione pubblica e di insegnare. Mantenendo la tradizione importata dai belgi nel 1936, tradizione di istituire una carta di identità etnica per gli abitanti del Ruanda, e durante il genocidio del 94 fu proprio la carta di identità etnica quella che poi, diciamo così, stabilì il destino dei singoli, perché su questa carta c'era scritto se uno era Utu o Tutsi. Nel 74 invece la monarchia fu rovesciata da un golpe militare di Juvenal Habyarimana, che era sostenuto proprio dagli estremisti dell'Utu Power, mentre in esilio si costituiva un fronte patriottico ruandese, un movimento soprattutto Tutsi che si era rifugiato in Uganda e che diede inizio a un processo di liberazione dei Tutsi in esilio. L'FPR aveva appunto le sue basi in Uganda e si unì all'opposizione armata contro il dittatore Idi Amin, contribuendo alla vittoria di Yoweri Museveni e soprattutto sostenendolo nella lotta contro Milton Obote. Il regime di Habyarimana era un regime corrotto e dittatoriale ed era sostanzialmente governato da una cricca che si chiamava la Casu, che faceva riferimento alla moglie Agathe, una cricca che faceva affari. E questo regime a un certo punto nel 1990, dopo che c'era stata l'apertura con il discorso di Mitterrand riguardo alla democrazia in Africa, quindi si sono aperti un po' dappertutto in Africa dei tavoli di negoziazione con l'opposizione, questo regime non avrebbe avuto scampo se non fosse stato per l'aiuto della Francia subentrata al Belgio come potenza neocolonizzatrice, tant'è che con le armi e con i soldi francesi gli Utu addestrarono dei veri e propri squadroni della morte. E in Ruanda poi l'opposizione si faceva sentire con grandi manifestazioni, e a un certo punto Habyarimana fu costretto dalla situazione interna, dalle pressioni esterne, a firmare gli accordi di Arusha nel 1993, degli accordi che stabilivano una condivisione del potere con i Tutsi. Ma naturalmente contemporaneamente però preparava gli squadroni della morte, i cosiddetti interamue, che venivano armati con i macete grazie ai soldi francesi. Interamue, milizie che presidiavano ogni comune, e cominciarono a circolare liste di Tutsi e Hutu moderati, tant'è che secondo l'ambasciatore belga in Ruanda già nel 92 gli Hutu avevano creato uno stato maggiore segreto incaricato dello sterminio dei Tutsi. Nel frattempo l'FPR ha cominciato un'offensiva per entrare in Ruanda e quindi il potere Hutu si preparava allo sterminio totale, anche se da una parte sembrava cedere con gli accordi di Arusha, ma tutto questo nella totale indifferenza e complicità sia delle Nazioni Unite che della potenza coloniale francese. Hata kumwambie arudie, ye hatabakia, hatajiendea juu ya weye. E l'ala dura del regime naturalmente non ci stava. L'ala dura era composta soprattutto da appunto la Casu, e cioè la sua Agatella, la sposa, la moglie, poi ufficiali superiori che temevano l'arrivo dell'FPR, il colonnello Bagosora, che fu quello che animò questo colpo di Stato, i capi politici dell'Hutu Power, gli estremisti Hutu che si erano costituiti in ogni partito e avevano reclutato appunto le milizie armate con i macete, e quindi erano pronti quando Habyarimana tornò con il suo Falcon da un incontro all'estero, lo abbatterono l'aereo e cominciò questo massacro che era già predisposto, già preparato. La sparizione del presidente rispondeva a un doppio obiettivo, quello di aprire il potere all'ala più radicale del regime, diretta appunto dal colonnello Bagosora, e poi di creare questa alchimia, questo mélange di odio, di paura, che permetteva di associare tutta la popolazione Hutu a questa impresa di sterminare i Tutsi. Allora, Onda Rossa 87.9, stavamo appunto raccontando il genocidio ruandese e abbiamo qui al telefono Massimo Zaurrini. Pronto, mi senti? Sì. Benissimo. Allora, tu sei appunto un giornalista, lavori con Atlas e Africa in Business, e ti sei occupato insomma un po' delle questioni africane in maniera approfondita, e quindi vediamo un po' se questo genocidio insomma interroga non solamente i ruandesi, ci interroga un po' tutti. Che cosa è rimasto dopo 20 anni in Ruanda di questo ricordo, di questo momento così tragico? È rimasta una ferita ancora aperta, una ferita sicuramente aperta, e devo dire ancora su molti aspetti presente, soprattutto sul lato politico. Il Ruanda è un paese particolare, un paese che negli ultimi anni ha avuto una grandissima crescita economica, che per certi versi è in cima a tutte le classifiche internazionali economiche, di libertà, la rappresentatività delle donne in Parlamento è fino al 50%, per cui è in testa a tanti indici. Le ferite ancora aperte del genocidio si vedono per dire se invece si va a guardare lo scenario politico nazionale. Una serie di non c'è praticamente opposizione, recentemente alcuni nuovi partiti politici dell'opposizione hanno cercato di fare il loro ingresso nella scena politica nazionale, sono stati esclusi con l'accusa di essere o negazionisti del genocidio o coinvolti nel genocidio. Comunque appunto la ferita genocidio è stata utilizzata, almeno questi partiti dicono, per appunto viene utilizzata per tenere al margine del sistema nazionale voci differenti, per cui è una pagina in realtà ancora aperta. Ci sono anche dei problemi che riguardano effettivamente la sicurezza del Ruanda, o meglio che sono agitati dal governo ruandese rispetto alla presenza delle milizie Hutu nel Congo, che secondo loro minacciano appunto l'integrità del Ruanda. E poi c'è anche forse un problema che ha a che vedere con la pressione demografica. Il Ruanda comunque è un paese sovrappopolato, e quindi c'è proprio una tendenza all'espansione, a conquistare nuovo territorio, e questo forse fa anche parte della politica, soprattutto nell'area di Kigali, rispetto anche alla presenza nel Congo. Quella è un'altra delle questioni aperte. Ufficialmente le motivazioni sono anche qui legate al genocidio, a dimostrazione che la ferita è tutt'altro che chiusa e superata. I critici del governo ruandese dicono che in realtà è solo un alibi, una scusa quella della presenza di gruppi di ex genocidiari. Io qualche anno fa incontrai il capo dell'FDLR, che effettivamente era un giovane che all'epoca del genocidio aveva fino a 10 anni, per cui non poteva essere considerato sicuramente un responsabile di quanto accaduto nel 94. Con questa motivazione sta di fatto che negli ultimi anni è aumentata la penetrazione ruandese in alcune zone dell'est del Congo, soprattutto nel Nord Kivu e nelle zone a ridosso della frontiera tra i due paesi. Come dicevi giustamente, la pressione demografica si fa sentire, e Ruanda è un paese che sta andando molto bene, ma che appunto ha un territorio molto limitato a fianco, oltre dei confini che sono molto diversi da quelli europei, invisibili i confini africani, ma li sappiamo noi, sul posto non li conosce quasi nessuno. Ultimamente, negli ultimi anni, c'è stata l'aumento della popolazione ruandofona, una popolazione che teoricamente già era presente in alcune aree, ma secondo alcuni commentatori, diciamo che il governo ruandese negli ultimi anni ha favorito una sorta di delocalizzazione di famiglie ruandesi in queste aree, inseguendo quello che è un po' un sogno della grande Ruanda, fondamentalmente, che prevede di allargare il controllo su alcune zone dell'est del Congo, che sono invece fortemente lontane dal controllo di Kinshasa. Bene, non so se puoi ancora continuare la telefonata, o c'hai delle interferenze. ho qualche interferenza in attesa. Allora, ma se volete possiamo anche andare avanti. Guarda, no, così che un'ultima cosa, così poi insomma ti puoi dedicare. L'FPR, che è diventato un partito di governo, poi ha cambiato anche la posizione, diciamo così, geopolitica del Ruanda, perché Kagame di fatto adesso è un alleato degli Stati Uniti. E in qualche modo l'FPR era un movimento anomalo rispetto ai movimenti di liberazione in Africa, perché è stato creato all'estero, ha fatto proseliti nell'esercito ugandese, molti dei combattenti non erano mai stati in Ruanda e non c'è mai stato un collegamento vero con la gente del Ruanda. Quindi insomma il potere di Kagame comunque si è rafforzato, ha avuto anche un certo capacità di scontrarsi con la Francia, c'è stata una rottura dei rapporti diplomatici, quindi insomma Kagame è una figura che comincia ad avere un certo ruolo all'interno degli equilibri dell'area, probabilmente sostenuto anche dagli Stati Uniti nell'ambito di uno scontro più complessivo con gli interessi francesi. Sì, anche se devo dire che probabilmente nell'ultimo anno, negli ultimi due anni qualcosa è cambiato. Sicuramente, come dicevi, il partito di governo ruandese e Kagame possono per certi versi essere considerati più ugandesi che ruandesi. Una delle prime mosse fatte hanno proprio spostato l'orbita geopolitica del Ruanda, che è passato dall'area francofona a quella anglofona, tant'è che appunto la lingua ufficiale è diventata dal francese all'inglese, il cricket è stato dichiarato uno sport nazionale, il paese è entrato nel Commonwealth, quindi insomma i segnali di uno spostamento erano abbastanza evidenti. Sicuramente il Ruanda fino a un paio di anni fa godeva dell'appoggio quasi indiscriminato e mai messo in discussione degli Stati Uniti. Nell'ultimo anno le ultime vicende congolesi hanno segnato un po' il passo. Kigali al momento è sicuramente sempre molto vicina al governo statunitense, ad altri governi occidentali, diciamo anglofoni o comunque legati a quell'area, l'impressione è che non gli venga più lasciata carta bianca come fino a qualche anno fa. Bene, senti, l'ultima domanda, ma questa crescita economica che insomma abbastanza veloce, anche sorprendente, però probabilmente nasconde anche delle contraddizioni, non solamente dal punto di vista, diciamo così, dell'agibilità democratica in Ruanda, ma probabilmente l'FPR non riesce probabilmente a gestire più anche una situazione che con la crescita economica crea anche nuove esigenze, nuove classi medie che probabilmente aspirano a un processo democratico. Crea anche forti divisioni interne, non è un caso se nell'ultimo anno e mezzo, negli ultimi due anni, si è assistita a una serie di defezioni di figure storiche del partito di governo e l'esercito, costretti a scappare in Sudafrica. Recentemente ci sono stati un paio di omicidi in territorio sudafricano di esuli ruandesi, stiamo parlando di figure di spicco dell'esercito ruandese, di cui ovviamente nei quali Kigali smentisce qualsiasi coinvolgimento, ma di parere diverso sono i sudafricani che invece continuano a puntare il dito alla polizia ruandese, quindi qualcosa si sta muovendo in quel monolite che era il fronte popolare ruandese, che è stato il fronte popolare ruandese negli ultimi vent'anni, e d'altronde un'evoluzione è anche innegabile, perché comunque la situazione sta cambiando sicuramente, quindi lo scenario sta mutando e probabilmente anche all'interno dell'establishment ruandese qualcuno sente la necessità di modificare alcune cose. Bene, e allora Massimo, io ti ringrazio della tua collaborazione e allora poi continueremo l'analisi insomma della situazione ruandese anche con altri interlocutori. Ti ringrazio e buona permanenza. Ringrazio voi. Ciao. Allora 17:25 l'ascolto di Radio Onda Rossa 87.9 la modulazione di frequenza 06 49 17 50, il contatto telefonico Radio Africa, trasmissione dedicata al ricordo, alla riflessione sul genocidio ruandese. Proprio 20 anni fa abbiamo ascoltato Massimo Zaurini, giornalista e conoscitore insomma dei fatti ruandesi, che appunto ci ha un po' illustrato qual è la situazione attuale del paese. Adesso proveremo un collegamento invece con un africanista e uno storico, Carlo Carboni, per vedere di dare un'inquadratura, diciamo così, più storica di quello che è successo nel 94. To be self to be self, we no good to be self. To be self to be self, we no good to be self. You meet me and me woman, you are for make we part. You meet me and me body, you are for make we scatter. You will not be there, that you want me separation. And you ain't no concern, that you want paradise. But waiting God on my, you not go able to wear. Waiting God on God, you not go able to scatter. Mama, yeah, no exam, not to you making life, eh. Mama, yeah, no exam, not to you making life, oh. Not to you, you're not for me, eh. Not to you pick up for me, eh. Allora, Radio Onda Rossa, 87.9 nella modulazione di frequenza, come detto abbiamo, abbiamo al telefono Carlo Carboni, africanista e storico dell'Università della Calabria. Pronto? Sì, sono qui. Perfetto. Allora, noi abbiamo dato prima un quadro rispetto alla situazione odierna del Ruanda. E le faccio la stessa domanda che ho fatto prima a Massimo Zaurini. Questo genocidio interroga non solamente i ruandesi, ma ci interroga anche noi occidentali, come anche responsabilità e soprattutto anche rispetto a questa mancanza di corrispondenza fra la mappa politica e quella etnica, che molto spesso ha generato situazioni di tensione e di guerra. Sì, in realtà non si può fare a meno di richiamare la responsabilità del colonialismo, la responsabilità degli europei, perché se appena appena si guarda un po' nel passato, neanche tanto lontano, ma nel passato recente, nel passato dal coloniale, della prima metà, soprattutto la prima metà del secolo scorso, si vedrà che è agli europei che bisogna risalire per capire il montare della tensione etnica. In un certo senso si può dire, non tanto che le etnie non esistano, un'invenzione dei colonialisti, come qualcuno ha fatto, come spesso si dice, forse per una specie di iperafricanismo, come se le etnie fossero un connotato negativo, mentre invece non lo sono, è tutt'altro. Ma bisogna invece risalire agli europei per cercare di capire il meccanismo che ha innescato il confronto fra le etnie e che ha fatto diventare il confronto fra le etnie un conflitto. Ecco, è questo che probabilmente bisogna fare se si vuole capire quello che è successo negli ultimi anni e che continua ad avere difficoltà ad essere governato, insomma, il confronto, il conflitto, lo scontro etnico che aveva portato a più riprese, prima a partire dal 1959, prima dei tentativi mal riusciti, poi a quello del 94, il tentativo quasi riuscito di genocidio, per capire questo scontro estremo in un mondo nel quale i rapporti fra le etnie prima del colonialismo erano rapporti di grande equilibrio, di osmosi, di convivenza nel reciproco interesse. Ebbene, bisogna capire che cosa è successo, capire che cosa è intervenuto con l'arrivo degli europei. Sì, sono stati proprio dei precisi processi storici a generare questo antagonismo e questa spirale di violenza che non sono stati, sì, quindi... in un certo senso, se si vuole proprio semplificare al massimo, ecco, parlare proprio a sciabolate, come si dice, beh, si può dire che quando gli europei sono arrivati lì, ci sono arrivati per primi i tedeschi, hanno scoperto, questa regione, la regione del Ruanda e del Burundi, sono le ultime regioni scoperte dagli europei, ci sono arrivati alla fine dell'Ottocento, nel 92, hanno creduto di trovare nella regione, equivocando in maniera drammatica e decisiva, hanno creduto di trovare nella regione una preminenza dei pastori, dei battuzzi, sui contadini, cosa che non era nella realtà. L'equivoco è dovuto al fatto che i tedeschi sono arrivati per primi, per la prima volta, sono arrivati in una piccola regione del Ruanda, dove effettivamente quella che poi i francesi chiamarono la chefferie, insomma il sistema amministrativo locale autonomo, era governato da pastori, e generalizzarono questa situazione estendendola arbitrariamente all'insieme del paese, del Ruanda, ma anche al Burundi e a tutti i regni sacri della regione dei Grandi Laghi. A questo tipo di equivoco furono indotti da una serie di cose che hanno a che fare, in qualche caso, anche con la psicologia di gruppo, con la psicologia di massa, ma insomma senza scendere in questo tipo di ragionamento, si può dire che loro, gli europei, i tedeschi in particolare, avevano pensato di avere trovato lì dei quasi europei. C'erano delle differenze veramente rilevanti fra il sistema dei pastori tutsi, così come loro lo avevano congegnato d'accordo con i contadini, e il resto dell'Africa, mentre nel resto dell'Africa c'era il politeismo, non mancava la monarchia, non c'erano rapporti fra gruppi o caste. Lì invece c'era tutto questo, c'era il monoteismo, c'erano delle monarchie sacre, e c'era un sistema governato da gruppi che, questo è quello che gli europei non vedono, ora potevano essere dei pastori tutsi, ora potevano essere dei contadini Hutu. Loro pensarono che il governo appartenesse da tempi immemorabili ai pastori, e questo era un pensiero che veniva, per così dire, naturale per chi, come gli europei, pensavano che gli africani non avessero storia, e che quindi quello che loro avevano appena osservato, o almeno avevano creduto di osservare, avevano osservato sbagliando l'interpretazione, non avendo gli occhiali giusti per guardare, certo, quella realtà, forse durasse dall'eternità, perché se l'Africa non aveva storia, il presente corrispondeva esattamente al passato. Sì, diciamo che certo, i colonizzatori si sono trovati di fronte a delle relazioni sociali che erano molto più complesse di quello che loro immaginavano, e le hanno lette in base, diciamo così, agli occhiali, alla visione razziale che avevano dentro, sì, europea, un po' anche condizionati dalle tesi dell'epoca, e quindi lo sguardo europeo ha creato, diciamo così, quei condizionamenti che poi però sono stati assunti anche dalle classi dirigenti ruandesi. Eh sì, ma sa, questo molto dopo. Nel frattempo gli europei, sulla base di questo equivoco, avevano organizzato passati dalla visita, per così dire, dalla scoperta alla presa di possesso dei territori, al colonialismo, avevano organizzato il sistema sulla base dei pastori, dando tutto il potere residuo ai pastori. Tutto quello che non era governato direttamente dagli europei, gli europei lo avevano destinato al governo dei pastori, e questo aveva sconvolto completamente gli equilibri sociopolitici e della regione nel suo complesso. È così che a poco i contadini che prima, i Bavutu, insomma, per intenderci, che prima avevano avuto un ruolo paragonabile a quella dei pastori. Mm-hmm. Pronto? Sì, sì, c'è stato un attimo un'interruzione. Pronto? Ecco, io la sento. Ora comincio a risentire anch'io. Ah, perfetto. Allora, dicevo, il passaggio del potere, il conferimento del potere ai pastori da parte degli europei sconvolge l'equilibrio e rende i contadini, che prima avevano un ruolo assolutamente comparabile a quello dei pastori, si spartivano, per così dire, sia il potere amministrativo che quello politico che quello sociale. A un certo punto i contadini sono rimasti del tutto privi di potere e questo ha innescato uno stato di insofferenza, di insoddisfazione, che è scoppiato solo quando gli europei non si fidavano più dei pastori, ai quali avevano insegnato a leggere, anzi ai quali avevano destinato esclusivamente l'istruzione primaria, ma proprio destinando l'istruzione primaria a questa gente, li avevano spinti, per così dire, a informarsi su quello che avveniva al di fuori dei regni, sul vento delle indipendenze, eccetera eccetera. Quando i pastori chiedono l'indipendenza e gli europei dicono: allora basta, non siete più voi i nostri alleati. Certo. E si alleano rispetto a questo cambiamento di posizione, diciamo così, che è avvenuto intorno agli anni 50, poi 58, anche 58, la seconda metà degli anni 50, anche in base, diciamo così, al proclama insomma dei Bautu, nel senso che c'era anche come dire una definizione teorica di questa necessità di cambiamento. Sono stati Ma il programma non era dei Bautu, il programma era stato scritto dall'arcivescovato di Cambrai. Lì volevo arrivare, perché appunto ci sono state delle influenze notevoli da parte della Chiesa, sia quando si sono stabilite queste divisioni in maniera arbitraria, sia quando appunto il potere coloniale ha appoggiato la rivolta Hutu. Sì, la cosa non è sorprendente, perché lì si trattava veramente di una questione vitale per gli europei, non tanto per l'importanza del Ruanda o del Burundi o del Buho o del Kivu, eccetera, che erano piccoli regni privi di importanza materiale, quanto per il fatto che la richiesta di indipendenza coincideva sostanzialmente con l'eventuale inclinazione, come dire, di sinistra o filocomunista di coloro che richiedevano l'indipendenza, il che non era vero, il che era del tutto falso. Tutti coloro che richiesero l'indipendenza in quel periodo, Lumumba in Congo compreso, erano tutt'altro che comunisti, erano fondamentalmente dei liberali, se li si vuole ad ogni costo assegnare a una categoria politica europea, ma erano fondamentalmente dei tradizionalisti che volevano liberarsi solo dagli europei, tutto qua. Mentre invece in età di guerra fredda sia l'amministrazione civile, i colonialisti in senso proprio, che l'amministrazione religiosa, i missionari e il Vaticano avevano pensato che bisognasse tenere a freno le ipoteche dell'Unione Sovietica su questi potenziali suoi alleati nell'Africa centrale, e quindi contenerli, frenarli. In Europa, nel mondo, nel resto del mondo, la si chiamava containment. Sì. In Africa la si chiamò indipendenza sì o no, a seconda che il ceto politico che avrebbe gestito l'indipendenza era o no alleato credibile degli europei, del mondo occidentale, diciamo. Sì, poi non si faceva molti scrupoli, considerando anche l'appoggio che veniva dato a personaggi come Mobutu, ma in Ruanda stesso Habyarimana era andato al potere con un colpo di Stato, era un dittatore che insomma sicuramente non era una figura cristallina da questo punto di vista, no, però certo, era appoggiato democratico specchiato sia dai belgi che poi dai francesi. Un aspetto della questione ruandese è stata anche, diciamo così, l'onda d'urto rispetto alla situazione della regione, alla crisi dei Grandi Laghi, come viene definita, questo flusso di profughi generati dalle varie ondate di violenza che hanno travalicato i confini statali e quindi sono diventati anche loro quasi dei vettori di contagio di instabilità nella regione, la presenza appunto dei Tutsi in Congo e la lotta per la conquista delle risorse del Congo. Insomma, come ha influito questa crisi ruandese? Ha influito in maniera doppia e doppiamente contraddittoria, perché in realtà c'è stato dapprima una volta che i Tutsi hanno preso il potere con Kagame nel Ruanda, la grande fuga delle centinaia di migliaia di persone che avevano partecipato al genocidio contro i Tutsi, la fuga verso il Congo, al fine naturalmente di salvarsi dalla vendetta dei Tutsi. Primo elemento, sì, il primo elemento è quindi prima, tra virgolette, invasione, quella dei Bahutu in Congo. Seconda invasione, anche questa tra virgolette, è quella dei Tutsi, nel senso che i Tutsi, una volta preso il potere in Ruanda, cercano di assicurarsi i confini in maniera radicale, controllando proprio militarmente i confini, e quindi si sconfinano verso il Congo. Sconfinano bene accetti, intendiamoci, perché il presidente, l'oppositore di Mobutu dell'epoca, che era Laurent Désiré Kabila, li chiama i Tutsi per farsi dare una mano a rovesciare Mobutu, e i Tutsi arrivano fino a Kinshasa, sostanzialmente rimangono gli unici militari con una autentica formazione militare. Si tenga presente che loro erano stati addestrati negli Stati Uniti, la stragrande maggioranza dei Tutsi che hanno fatto la rivoluzione in Congo abitando in Uganda, come emigrati in Uganda, quindi grande preparazione militare, riescono a gettare giù dal trono Mobutu e si installano, per così dire, nel Congo orientale. Qui scattano problemi che io non so se abbiamo tempo di esaminare, ma problemi di gelosia di una serie di sia di gruppi politici che delle stesse popolazioni congolesi dell'est in senso anti-Tutsi, e i Tutsi vengono a questo punto invitati in maniera determinata, per così dire, a lasciare il Congo e a tornarsene in Ruanda. È ovvio che il ritorno in Ruanda non avrebbe potuto così puramente e semplicemente essere soddisfatto, questa esigenza dei congolesi, senza che i congolesi riuscissero ad assicurare i ruandesi della sicurezza del confine, del fatto cioè che il confine congolese con il Ruanda non sarebbe stato in futuro, come era nei fatti, una base, un santuario dei genocidari Hutu, che avrebbero voluto a centinaia di migliaia ritornare in Ruanda e riprendere il potere. Allora, Prego. No, il tempo come al solito è tiranno, quindi sì. Allora, un'ultima considerazione su un aspetto di questo genocidio, nel senso, un genocidio che è stato un fenomeno moderno, nonostante i mezzi con cui è stato portato avanti, in macete, insomma, nonostante però è stato frutto anche di un'organizzazione capillare dello Stato ruandese. Capillare. L'interamue, le milizie erano presenti dappertutto, era stato tutto preparato, c'erano le liste, c'erano i segni sulle case, e quindi oltretutto frutto di una demonizzazione dei Tutsi, grazie anche a per esempio al lavoro di Radio Mille Colline. Quindi c'è qualcosa di moderno, ma contemporaneamente anche nelle modalità di qualcosa che è lontano dalla nostra sensibilità. Certo, per noi è agghiacciante pensare che 800.000 persone sono state ammazzate a colpi di macete, ma è la realtà, è la realtà. Cioè, quello era lo strumento che avrebbe consentito, in un certo senso anche simbolico, sa, quando ci sono stati i primi tentativi di genocidio in Burundi, quell'occasione io, nel 72 ero proprio lì, l'idea era quella che questi tuzzi che fino a un certo tempo fa sono stati effettivamente molto diversi dal punto di vista fisico, antropofisico, diciamo, dai pastori molto alti, molto marchi, a questi pastori bisognava tagliare le gambe per renderli uguali agli altri, e venivano effettivamente colpiti alle ginocchia dai macete per ridurne l'altezza e quindi anche l'orgoglio, la prepotenza, eccetera eccetera. Capisce? Ci sono stati anche elementi simbolici molto, molto importanti che possono spiegare la crudeltà indicibile, la violenza che noi non pensavamo più potesse essere ripetuta dopo il genocidio ebraico. Ma invece si è ripetuta in maniera ancora più violenta di quanto non sia successo contro gli ebrei. Si tenga presente che da un punto di vista puramente proporzionale, ammazzare 800.000 persone su 2 milioni e mezzo, quanti erano tutti i tuzzi a quell'epoca, 20 anni fa, una sorta di soluzione finale. È una soluzione finale quasi portata a termine, è molto più importante proporzionalmente di quella che è stata ammazzare 6 milioni di ebrei su 30 milioni, capisci? Cioè, certo. Quindi la crudeltà è aumentata, non è diminuita, nonostante l'apprestamento di presidi, diciamo, giuridici internazionali, eccetera. La violenza non ha smesso di crescere nel nostro mondo, ed è questo forse vale la pena di tenere presente quando certo, si tutto scatenano questi fantasmi, no? Questi fantasmi è accaduto nell'indifferenza e a volte anche nella complicità rispetto e nell'impotenza da parte dell'ONU, la complicità da parte dei francesi. L'operazione di Turquoise poi successivamente ne fa anche testimonianza. Addirittura solamente adesso si è condannato un genocidario in un tribunale francese dopo 20 anni, e per dopo tanto 20. Tempo i francesi hanno continuato a dire che quei due missili che hanno abbattuto il Falcon di Abiarimana provenivano dall'FPR o dai belgi. Commissioni d'inchiesta, insomma, che hanno confuso le acque. Sì, prego. No, Mero lei sta dicendo la cosa corretta, ma il problema relativo agli autori dell'attentato all'aereo su cui viaggiavano i due presidenti, quello ruandese e quello burundese, e secondo me è stato già risolto da Philippe Reitjens, grande studioso della regione belga, nel senso che i due missili erano sicuramente, o potevano essere sicuramente, nella disponibilità delle truppe Hutu, delle truppe di Abiarimana, cioè delle truppe che poi erano pronte a sterminare i tutsi. Ma questo forse sarebbe anche secondario, perché in realtà chi sia stato l'autore dell'attentato è probabilmente rileva probabilmente poco, se si pensa che comunque quell'attentato ha scatenato quel tipo di genocidio, non altri, che le vittime di questo genocidio sono stati i membri della minoranza. Ecco, è questo che va rilevato. Qui, vede, io ho l'impressione che in Europa ci sia stato un equivoco, una indebita, come dire, confusione dovuta al fatto che noi generalizziamo il nostro concetto di democrazia sul fatto che, essendo i tutsi una minoranza e gli Hutu una maggioranza, bisognava che la minoranza eseguisse le disposizioni della maggioranza, se queste disposizioni sono legittime. Ebbene, in quel periodo, almeno fino agli anni 90, le disposizioni della maggioranza Hutu erano quelle di eliminare dalla scena sociale e politica i Batuzzi. Allora, in qualche maniera questi avrebbero dovuto difendersi, no? E questo è quello che non si è capito. E molto spesso io ho visto che qui da noi, equivocando sul concetto nostro di democrazia, si è fatto un paragone assolutamente indebito con con la situazione sociale europea, paragonando appunto i Tutsi ai borghesi e gli Hutu ai proletari. Ma questo non ha fondamento. È un autentico abuso interpretativo. Non ha assolutamente nessuna rispondenza. Tra Tutsi e Hutu non c'è nessuna differenza di classe, per così dire. Ecco. È il concetto di classe che va eliminato dall'analisi storica di questa vicenda. Non è che ora le classi non comincino ad affacciarsi nel senso diciamo europeo del termine, anche in Africa centrale, ma fino a 20 anni o 30 anni fa era quasi impossibile distinguere un movimento politico di classe da un movimento prepolitico, per così dire, di natura etnica, assolutamente impossibile, e le comparazioni che venivano fatte erano abusive, insomma, ecco. Sì. Non c'erano le condizioni economiche per cui si generassero dei conflitti le classi. Adesso forse è diverso, i tassi di crescita sono alti, c'è un processo di industrializzazione. Allora, 17:51, ci dobbiamo fermare qui, nonostante insomma la conversazione sia molto interessante. E grazie della collaborazione, dell'intervento, perché è stato insomma importante chiarire, dare anche come dire uno sguardo d'insieme a quello che è successo 20 anni fa, e soprattutto è importante ricordare. Ok, grazie a lei. Grazie e a risentirci. E agli ascoltatori, arrivederci. Radio Onda Rossa, 17:52, abbiamo ascoltato, insomma abbiamo conversato con Carlo Carbone, docente africanista, docente dell'Università di Calabria. Abbiamo appunto cercato di inquadrare quello che è successo 20 anni fa in Ruanda in un contesto più ampio, e quindi rimanete sempre sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa. Questa è Radio Africa. Oh, mi beautiful girl, my shade piase, Congo sanaku, badatoku, wishaku. To we serve to we serve, we no good to we serve. To we serve to we serve, we no good to we serve. You meet me and me woman. E si era parlato parliamo un po' delle stime di questo genocidio. La verità delle cifre è veramente implacabile. In un primo momento Human Rights Watch aveva stimato in 507.000 il numero di Tutsi uccisi, cioè il 77% della popolazione che era stata censita come Tutsi. Il Ministero ruandese dell'amministrazione locale degli affari sociali invece ha pubblicato successivamente un censimento più preciso. Si parla di 1.047.017 vittime dichiarate e di 934.218 vittime effettivamente, come dire, verificate sul campo. In seguito la giurisdizione dei Gasasa, e cioè dei tribunali, la giustizia sull'erba, come si dice in Kinyarwanda, dei tribunali popolari che poi sono stati instaurati in tutto il paese per appunto giudicare i responsabili di questo genocidio. Questi tribunali hanno perseguito circa 818.000 persone, che corrispondono all'11,4% della popolazione totale e al 25% della popolazione fra i 15 e i 54 anni. Questo vuol dire che almeno il 25% della popolazione ha partecipato a questo genocidio. Se noi pensiamo che l'esercito ruandese non aveva più di 50.000 soldati, si stima che più di 1 milione di persone abbiano direttamente partecipato al genocidio dei Tutsi e al massacro degli Hutu che si opponevano al regime di Habyarimana, Hutu che sono morti per una cifra tra i 10 e i 30.000. Le 30.000 vittime. Come spiegare, per spiegare questa impresa di morte, i fattori, diciamo così, le spiegazioni non mancano. Ci sono esercitati sociologi, economisti che hanno avanzato appunto come spiegazione la povertà aggravata dalle politiche di aggiustamento strutturale, la sovrapposizione popolazione, il desiderio di accaparrarsi i beni dei vicini. E gli psicologi che hanno descritto una situazione di anomia, di scomparsa, di affossamento delle norme morali, una corrosione dei valori tradizionali dovuti anche a questo scontro quasi di civiltà, di culture con la religione cattolica. I politici inclini anche al revisionismo, che hanno sottolineato come la guerra esplosa in maniera decisiva nel 90 in seguito all'offensiva del fronte patriottico ruandese. Altri analisti hanno denunciato invece l'ideologia dell'odio che è stata seminata da Radio Mille Colline, la politica di esclusione dei Tutsi che è stata portata avanti fin dopo l'indipendenza, il rifiuto di dividere il potere, l'impunità nei confronti di coloro che si sono macchiati di crimini perché erano convinti comunque di svolgere un dovere patriottico. La cosa impressionante è che tutti sono passati, tutti quelli che hanno denunciato questa situazione nei Gasassà hanno detto che hanno denunciato il ruolo dei partiti politici, gli ordini dati dai borgomastri, dai sindaci, dai capi delle cellule, quindi una sorta di genocidio decentralizzato che si svolgeva in maniera quasi simultanea in tutto il paese, malgrado l'anarchia apparente, malgrado gli ordini e nonostante tutto gli ordini erano chiaramente formulati con una finalità evidente, quello di far scomparire la popolazione Tutsi del Ruanda. allora si sono fatte le 18. Radio Africa per questo sabato finisce qui, ma naturalmente rimanete sintonizzate e sintonizzati sugli 87.9 della modulazione di frequenza di Radio Onda Rossa, perché adesso c'è il jazz di DJ Lenin fino alle 19.30 e quindi noi ci sentiamo sabato prossimo. Les années passent, toujours dans la dépendance. L'Afrique martyrisée, exploitée et bâillonnée avec la complicité de ses dirigeants manipulés. On a crié victoire au mouvement des indépendances. Les années passent, toujours dans la dépendance. L'Afrique martyrisée, exploitée et bâillonnée avec la complicité. Oh oh, Tami, tu parles de souveraineté, man, tu m'étonnes. Tout se décide à Paris ou à Washington. Les colons sont partis, mais donnent les ordres au téléphone. Les ressources de l'Afrique qui continuent d'envoler des tonnes. Leurs émissaires au vent de béton dans nos environs. Égoïste et cupide, ils ne se soucient de personne. Exploitent leurs frères et sœurs, un peu comme des bêtes de somme. Souplaignons le nature et le siècle où nous sommes. On a crié victoire au moment des indépendances. Les années passent, toujours dans la dépendance. L'Afrique est martyrisée, exploitée et bâillonnée avec la complicité de ses dirigeants manipulés. On a crié victoire au moment des indépendances. Des années passent, on est toujours dans la dépendance. L'Afrique est martyrisée, exploitée et bâillonnée avec la complicité. Oh oh oh, écoute ça. L'Europe s'édifie pendant que l'Afrique s'autodétruit. Partout sur le continent, on ne voit que des conflits. Que de nouvelles violences pour de vieilles histoires. Voulons-nous l'indépendance pour que notre peuple boit du noir. Nos dirigeants sont-ils seulement conscients du retard de ce continent qui au début des temps était le phare du monde entier. L'aurions-nous déjà oublié? Du monde entier, il faut alors m'en le rappeler. Car les chanteurs japonais lui restent présents dans nos mémoires. Pour nous rappeler qu'il n'est jamais vraiment trop tard pour travailler afin de se faire une place de joie. Surtout si on a un but de la force et la foi. New style. Accepte docilement de se faire briser les reins. Car son maître en profitera pour le traiter comme un chien. Convaincu qu'il est que l'esclave aura toujours faim. Quand mettrons-nous fin à nos futilités pour affronter nos présentes réalités? Limités nous sommes par une tonne de complexes. Alors débarrassons-nous de tous nos vieux réflexes. On a crié victoire au moment des indépendances. Les années passent, toujours dans la dépendance. L'Afrique martyrisée, exploitée et bâillonnée avec la complicité de ses dirigeants manipulés. Oh yeah.